Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:09 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero e come sempre prima di introdurvi all'argomento della giornata, che però potete tranquillamente già trovare sulla nostra pagina di Facebook, quella dedicata proprio al riposo del guerriero, voglio ricordarvi che alle 11:30 cercheremo finalmente, grazie all'ente del turismo spagnolo, di farvi volare due persone, anzi il premio è uno soltanto che vale però per due persone, un volo andata e ritorno a Malaga e poi ovviamente col pernottamento e le due notti per riuscire a visitare la città con tanto di visita guidata in italiano al Museo Picasso, l'ingresso alla casa natale di Picasso, la visita panoramica di Malaga e poi anche la visita guidata della Malaga di Picasso, tutto in lingua italiana. Potrete portare a casa questo premio ammesso che riusciate a indovinare il quadro di Picasso, l'opera che in qualche modo si può ricollegare a questa canzone. Avete riconosciuto? Questa è la voce di Alex Baroni, il titolo della canzone è Cambiare, voi dovete cercare di capire a quale opera di Picasso questa canzone può essere legata. Si gioca alle 11:30, il numero verde per prenotarvi già da adesso, 800 24 00 24. Ma veniamo all'argomento di oggi del riposo del guerriero. C'è un giorno importantissimo per molti di voi e molti di noi ovviamente, siamo, per usare il titolo della nostra trasmissione, tutti convocati quel giorno quando si deve pronunciare il fatidico sì. E quindi l'argomento di oggi è uniti per sempre. Il giorno del matrimonio è un giorno importante. Come sta cambiando però in un momento di crisi dove non ci sono così tanti soldi da spendere per avere, non so, 500 invitati e torte a 7 piani e magari una giornata intera o più di una di feste? Come sta cambiando il matrimonio? Si ha ancora voglia di sposarsi o si preferisce rimandare perché appunto costa molto? Fra l'altro una nostra ascoltatrice Elena ha già scritto su Facebook: mi sarei augurata così che mi deste una mano a cambiare idea, perché probabilmente sta per sposarsi. Ma no, non vogliamo far cambiare idea a nessuno, però vogliamo cercare di capire come si vede il matrimonio oggi, come funziona, a che cosa si dedicano i soldi, al vestito, agli invitati, alla cena, oppure non si fa, si fa un buffet, non lo so, me lo direte voi, ce lo racconteranno ovviamente i nostri ospiti. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi: 349 238 6666. E visto che parliamo di un importante sì, ecco Mina. E ti giri indietro e ti ritrovi in un mare di sé, ma io resto con te e ti voglio perché io con te sto bene, mi dimentico le pene, son felice, non mi pento, tutto qua. E se guardi bene in me, troverai una parte di questi giorni tra noi, non li venderei mai. Mi ricordo bene tante favole serene, tante frasi dette con ingenuità. Il Mina con Devi dirmi di sì, perché insomma in quel giorno, il giorno dell'essere uniti per sempre, bisogna pronunciare proprio quell'importante sì. E prima di entrare nel vivo della puntata, gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Paolo Mosca, buona domenica, ciao Paolo. Ciao anche a te. Allora, Paolo Mosca, autore televisivo ma anche curatore di un nuovo programma che, dico un po' inaspettatamente, ha avuto un bel successo fin dalla prima puntata, che si intitola Non ditelo alla sposa. Cosa succede in questo programma? Ma è un'idea alla fine estremamente semplice. Il matrimonio viene organizzato completamente dal futuro sposo all'insaputa di lei. Cioè lei sa che lui lo organizzerà, ma non sa minimamente come, quando, con che tempi. Quindi sa che entro 3 settimane si sposerà. E basta. Sa che c'è un budget, sì. 15.000 euro. 15.000 euro. Che lui però gestirà completamente a suo piacere. Tipo 12.000 si rispetta per lui, 2.000 per no. Il celibato, esatto. E per cui deve scegliere veramente tutto, dalla location all'abito da sposa. Ecco, l'addio al celibato è compreso oppure no? Se tu l'hai citato prima, mi è venuto sì, in mente. Sì, sì. Sì. Addio ma al celibato anche per lei. E addio al nubilato. Ah, quindi anche il nubilato lui per deve, lei. Lui deve stanziare un budget che sì. I suoi amici usano per organizzare il suo addio al celibato. Sì. E invece organizza direttamente l'addio al nubilato della sua futura sposa. Ah, questo è interessante. Vabbè, allora, intanto partiamo quindi da un presupposto, che è quello che il matrimonio normalmente viene sempre organizzato da lei. Beh, diciamo che sì, quantomeno insieme, però poi è la donna che comanda. Tant'è vero che poi quando organizza tutto lui... È un casino. Cos'è la cosa che normalmente non va bene a lei? Ma allora, le scarpe le cannano sempre, perché avendo un budget, sì. Intanto l'uomo quando viene lasciato da solo... Prima ha una serie di raccomandazioni da parte della futura sposa, però una volta che si ritrova da solo, queste raccomandazioni diciamo che si affievoliscono, se le dimentica. Ma andrebbero scritte forse. Ecco, ma inizia cioè. Soprattutto a apprezzare la libertà, per cui si ritrova a essere pienamente padrone di se stesso e va per la sua strada. Però qui entriamo in un campo particolare, cioè quindi tu in qualche modo stai dicendo, sottintendi il fatto che non c'è una vera libertà di scelta nel momento in cui si è in coppia. Questo in generale, al di là che sia un uomo o una donna. Ovviamente. Beh, è un compromesso tra i due, quello esatto. Sicuramente. Quindi quello regge tutto. Sì. Ecco, per cui tu dici invece nel momento in cui uno dei due è completamente libero di scegliere, allora a quel punto scattano dei meccanismi strani. Strani, anche perché c'è un tipo di aspettativa totalmente diverso. Cioè il matrimonio è una cosa, adesso non vorrei fare il maschilista, però prettamente femminile. Cioè è la donna che da sempre... Aspetta, fermati lì. Giuliana Parabiago, ciao, buona domenica. Ciao, buongiorno. Già capivo che stavi ridendo. Io sto già sorridendo, mi diverte molto conversazione. Allora, intanto io... Sono anche preparata, ho appena visto l'ultima puntata della trasmissione. Brava. Sapete che io non sono in Italia, ma prima di partire l'ho proprio visto. Ecco, allora, intanto Giuliana Parabiago è il direttore di Vogue Sposa e soprattutto io, Giuliana, ti devo ringraziare veramente tanto perché tu sei a New York in questo momento e credo che siano le 4:05 del mattino, le 4, sì. Che ore sono? Ecco. Sì, 4:20. Ecco, quindi sei rimasta sveglia apposta per poter partecipare in diretta, quindi veramente ti ringrazio tanto. Ma entriamo invece. È un piacere. Allora, sottolineiamo le cose che ha detto Paolo Mosca. Allora, il matrimonio è prettamente femminile. Tu cosa dici? Assolutamente sì, è verissimo. Io dico sempre che la vita in due inizia dal giorno dopo, perché i preparativi sono un dominio del femminile, non solo della sposa. La parte femminile, amiche, madri, suocere, però è verissimo. L'uomo sta cercando faticosamente di conquistarsi una parte. Cioè, a volte mi capita di parlare con degli sposi e i ragazzi dicono ma io voglio essere protagonista, però è ancora un territorio molto femminile. Ecco, allora, quindi è chiaro che la forza di una trasmissione, per esempio, come Non ditelo alla sposa, non so tra l'altro se è un format americano ripreso in italiano. Della Renegade inglese. Sì, ok, in inglese. E ha un senso proprio in questo, visto in quest'ottica, ovviamente. Quindi, quando invece è l'uomo che decide tutto, le cose vanno storte. Allora, intanto... No, non storte, però devo dire che è molto divertente vedere i due punti di vista, perché sono sì. Proprio due mondi completamente diversi. Senti Giuliana, allora in questo periodo storico, si hanno meno soldi ovviamente, quindi probabilmente si sta più attenti, o forse no, poi sentiremo anche delle wedding planner, quindi ci racconteranno un pochino. E la moda, visto che tu ti occupi di Vox Sposa e quindi principalmente di quello che ha a che fare con la moda per quanto riguarda la sposa, sta cambiando di conseguenza, oppure per il vestito della sposa comunque si investe e le cose non sono tanto cambiate, i tessuti sono sempre allora, quelli? Io mi occupo un po' di tutto in realtà, sì, perché il giornale si occupa proprio di tutti i preparativi, quindi location, di tutto, quindi una visione abbastanza generale. Posso dire che ci sono due atteggiamenti opposti, cioè c'è una grande oculatezza da parte di certe coppie che dimostrano che si può fare un bel matrimonio anche con delle cifre contenute, ci vuole molta attenzione nella gestione del budget, ma si può fare, e invece un atteggiamento completamente diverso, diciamo che la formica è la cicala, di coppie, soprattutto appunto donne, che dicono no, io mi sposo una volta, apro parentesi, chiudo, spero che sia quella giusta, e quindi il sogno non accetta mediazione, quindi si lanciano alla grande. Ecco Giuliana, e l'uomo invece resta sempre com'è, voglio dire, quanto sai, per l'abito da sposa si può fare molto, per come sempre noi invece abbiamo la solita giacca, la cravatta, insomma più o meno di un colore sempre scura, ovviamente è così, però non so, col gilet piuttosto che no, però siamo sempre allora, intorno a queste cose. Dico che l'abito da cerimonia ha tre pezzi, quindi sì, il gilet ce lo dovrebbe avere sempre, okay, però sia il tight che in generale anche l'abito. La fascia non basta. Tre bottoni da cerimonia dovrebbe avere il gilet, cioè sì, la regola è questa. Ci bisognerebbe avere il tight in certe cerimonie molto formali fino alle 4, perché è un vestito da giorno, e non bisognerebbe mai mettere lo smoking, perché è un vestito da sera e non da festa. Però detto questo, che poi ognuno si trova la sua strada, io dico le regole sono fatte per essere trasgredite, non è vero, nel senso che c'è una moda maschile anche abbastanza vanitosa, quindi ci sono giacche un po' guru senza colletto, ci sono dei colori nuovi come il granata scurissimo, anche l'uomo devo dire si può concedere delle belle vanità, è più difficile non trascendere nell'uomo, cioè a volte l'uomo finisce con essere persino un po' ridicolo se esagera. Sì, questo potrebbe essere. Giuliana, senti, dovendo invece immaginare un matrimonio di persone dello stesso sesso, quindi due uomini e due donne, che cosa cambia nell'abbigliamento? Perché ovviamente cambiano i canoni, no? Perché forse la sposa in bianco non ha più ragione d'essere, non lo so, sto dicendo delle cose che mi immagino. Sì, certo, ma su questo non sono una grande esperta. Tu però forse che hai girato il mondo, magari ne hai visto qualcuno. Ho letto sui giornali semplicemente. La cosa che ho notato proprio girando il mondo è che ci si riferisce sempre alla figura del matrimonio tradizionale, anche in quel caso, cioè ci sono degli elementi, il tipo di torta, che sono quelli del matrimonio tradizionale. Ecco, quindi insomma, magari l'abbigliamento cambia, però in realtà nel il contesto, perché sempre una festa è sempre una festa fondamentalmente importante. E poi nella mente delle persone la festa ha un certo tipo, cioè i due sposi sulla torta, cioè ci sono dei punti che sono stranamente molto comuni, cioè l'immaginario è quello. Io una cosa voglio dire sulla trasmissione che mi intenerisce molto: gli uomini sbagliano quasi tutto, è vero, soprattutto le scarpe, ma le donne che su questo argomento sono così pretendono molto, così esigenti, poi alla fine quasi sempre si commuovono e accettano anche queste cose che non sono proprio quelle dei loro sogni, e questa a me fa molta tenerezza, devo dire. Ecco, chiudo con questa domanda, Giuliana, e visto che sei una donna, nel momento in cui questo giorno, che dovrebbe essere da sogno, no? Soprattutto abbiamo detto per una donna, nel momento in cui invece questo sogno un po' si infrange contro delle scelte di lui che non erano aspettate, perde qualcosa oppure no? In realtà acquista, forse acquista dopo quello che secondo hai detto tu. Secondo me acquista. Grazie. Perché, sì, perché trovo che queste donne, superato il primo momento di imbarazzo, un po' di rabbia, immagino, la scarpa che a loro non piace, oppure c'è una certa distonia fra, non so, scegliere un certo posto e poi mettergli degli elementi, cioè scegliere un posto country e poi fare un menù che non c'entra niente, no? L'uomo fa molta fatica a mettere insieme l'armonia degli elementi, però poi queste donne sono commosse del fatto che lui se ne è occupato, questo è molto carino. È un bel modo per cominciare, quindi grazie Giuliana Parabiago, direttore di Vox Posa, puoi andare a dormire a questo punto, cioè, grazie, nel senso che sei rimasta sveglia fino alle 4:30, grazie ancora, buona domenica. Da New York direttamente, grazie davvero. Allora Paolo, torniamo a parlare invece di, non so, di un po' di cose che vi sono capitate a voi come troupe. Guarda, tendenzialmente diciamo una cosa, che il matrimonio per la sposa, come stavamo dicendo, è un investimento. Sì. Soprattutto una cosa che dicono spessissimo le future spose è: ho sempre sognato fin da bambina di sposarmi in questo modo. È quello modo. Che dicevo, no? È un po' quel come sogno. Come una principessa, sì, eccetera. Quindi c'è tutto un investimento anche infantile in questa cosa qua. Il marito, tendenzialmente, il futuro sposo, è meno interessato al lato, diciamo così, rituale. È più interessato alla vita insieme a una persona. Sì. E quindi che sia suggellata da un matrimonio o meno, gli va bene lo stesso. Paradossalmente trovo più romantico l'atteggiamento del maschio che non quello della femmina. Il maschio vede il matrimonio come uno sbattimento, come un impegno a cui deve sottostare. Certo. E però poi quando se ne fa carico cerca di trovarci il lato divertente, per cui inizia a divertirsi nell'organizzazione. È sul lato divertente che poi la sposa va a scontrarsi, perché invece vuole quella serietà che il suo sogno richiede. Se te manca un po' di ironia. Alle spose sì. Poi okay, la trovano, ma perché sono costrette a trovarla, insomma. Perché poi nel momento in cui ti ritrovi un elemento che non è quello che volevi, ma non lo puoi cambiare... Eh sì. Devi certo, per forza o riderci sopra o innamorarti di tuo marito. Io preferisco ovviamente tutte e due le cose, ci si ride sopra e ci si innamora, sarebbe la cosa più bella. Voglio sapere anche la vostra opinione, ovviamente, come ascoltatrice, come ascoltatori, magari futuri sposi, oppure vi siete sposati e com'è stata la vostra esperienza. 349-238-6666, c'è la pubblicità e poi torniamo. Il riposo del guerriero. Uniti per sempre, si spera ovviamente che sia così, che i matrimoni vadano benissimo, comunque li facciate, dovunque li facciate, con chiunque li facciate. Senza tante sanguisughe, scrive Paola in un messaggio, attorno agli sposi, il matrimonio tornerebbe a essere una bella cerimonia e non uno spettacolo. Ma quanta gente specula attorno a queste coppie? È vero, secondo te? Beh, sicuramente è un business. Sì, per cui com'è tutto, ecco. Come tutto. Io trovo sempre fantastico il business delle fotografie, cioè i fotografi per i matrimoni si fanno. Anche di quello avrei voluto parlare oggi, poi non c'era tempo con gli ospiti, però come si fanno le foto agli sposi? Sono sempre le solite cose, il bicchiere, il cincin, magari la foto dentro il cuore, dentro il adesso cerchio, più che altro è ciò che ti danno dopo, cioè invece di darti sì, l'album fotografico ti danno proprio il libro. Sì, quindi il DVD. È cambiato, oltre al DVD, ma lo impaginano a libro. È cambiato più il prodotto finale che non sì, la posa della allora foto. Torniamo invece al fatto, appunto, ripeto, Paolo Mosca, autore televisivo, però cura questa trasmissione che Non ditelo alla sposa, dove succede che è lui a decidere tutto all'insaputa di lei. Ma voi date anche dei consigli a lui, oppure lui proprio deve decidere al di là di ogni consiglio? No, è un reality, quindi, quindi fanno quello che vogliono. Ok. Non c'è il trainer che gli dice ma no, prendi questo. No. Sono liberi di fare quello che vogliono, amministrandosi un budget. E è vero che poi vanno spesso a, come dicevamo prima, ad infrangersi contro i desideri della sposa. Nell'ultima puntata, ricordiamo che va in onda il martedì su Lei TV, quindi canale 127 di Sky, alle 22. E nell'ultima puntata, per esempio, c'era il caso di questa sposa che fin da bambina aveva desiderato sposarsi col velo e lui, per un suo gusto, le prende un cappello. E quindi lei non vuole più sposarsi, poi in realtà si sposa. Adesso manca il velo. Ah, c'è l'inganno. Ramona, cosa c'è? Ramona, che c'è? Ramona, cosa c'è? Cosa c'è, Ramona? È bello! Ramona, è bellissimo! cappello. Vengono col velo. Tieni, Morena, parla giù. Ascolta, guarda che io penso che un cappello più bello di questo. Ecco, allora il concetto è che scopre questo cappello bello perché le piace il cappello, ma senza velo. Senza velo non ci si sposa. Ma veramente non voleva più sposarsi? Sì, perché è quello che dicevamo prima, è il sogno infantile. Molte delle trasmissioni che vanno sul satellite fanno leva sui desideri infantili o di maschi o di femmine. E quelle sui matrimoni chiaramente fanno leva sul desiderio di essere principesse in quel giorno speciale. Mentre poi ce ne sono altre, non so, è pieno di trasmissioni sulle aste che fanno leva sulla caccia al tesoro, no? Il sogno infantile più maschile. Ecco, ora ci sono dei sogni infantili che sono tipicamente maschili e quindi sono appunto le aste, tipo caccia al tesoro, quindi andiamo a cercare delle cose strane in soffitta. Sì, i Goonies, è vero. Goonies. Mi ci ritrovo, fra l'altro, se ci sono delle cose mi fanno sorridere perché mi ci ritrovo. E tu dici, per esempio, anche la casa da costruire, le cose, riparare le la casa. Le megastrutture, sì. Oppure, non so, tutte le trasmissioni sullo schifo e quindi gli orrori da gustare, piuttosto che sepolti in casa, piuttosto che accumulatori seriali. Anche lo schifo è una cosa tipicamente infantile. Oppure non so, i camion, c'è un programma che a me fa abbastanza ridere, che ogni tanto guardo, che si chiama Gli eroi dei ghiacci, su questi camionisti che vanno in giro per l'Alaska facendo dei trasporti enormi. Anche il camion è uno dei tipici sogni da bambino, no? Da bambino vuoi fare il pompiere, vuoi fare il camionista. Ecco, invece reality prettamente femminili secondo te quali sono? Comunque i programmi destinati a un pubblico prettamente all'infanzia femminile a questo punto. Le case. C'è cioè una marea di programmi sulle case, una marea di programmi sulla cucina, sì. E poi anche sui matrimoni. Su lei, oltre a Non ditelo alla sposa, c'è Matrimonio da favola, ce n'è un botto su Real Time, da Abito da sposa cercasi, Quattro matrimoni. Ma quindi in poche parole la TV è in qualche modo sottolinea proprio le differenze tra l'universo femminile e l'universo maschile. Secondo me sul satellite questa cosa sì, c'è tanto, molto più che sul digitale. Vabbè, poi potremmo fare una futura trasmissione appunto perché c'è questa differenza, cioè alla fine, no? Perché sì. Il digitale propone qualche cosa che da un certo punto di vista sta quasi di vecchio, no? Perché tende ancora a ridividere e invece sì. La TV, TV in chiaro, chiamiamola così, non lo fa. Ecco. Magari sì, per paura di essere tacciata di divisionismo in questo senso. Ma non lo so, credo che derivi molto dal fatto che i canali sono tanti e quindi ci si specializza molto in argomenti per cui ti ritrovi poi a fare la trasmissione sullo specifico sogno. Sì, infatti bisogna andare in una direzione, insomma, essere più specifici. Perché sulla cosa infantile, secondo me, è un modo facile per attrarre uno spettatore. E infatti ha funzionato, Non ditelo alla sposa. Stefania Poletti, buona domenica. Buongiorno a tutti. Allora, Stefania Poletti è una wedding planner e ha scritto anche un libro insieme a Stefano Niccolini e Serena Obert dal titolo Voglio fare la wedding planner, perché c'è l'idea che a voi donne a quanto pare piace così tanto il matrimonio come festa, come rito sicuramente e come sfoggio anche dei propri gusti che vi divertite a organizzarlo per gli altri. Dico bene, Stefania? Ci divertiamo, ma in realtà è una professione, certo. Una professione strutturata, una professione dove devi saper organizzare, devi saper gestire, soprattutto devi saper pianificare l'evento. In realtà è un'organizzazione di eventi a tutti gli effetti con alcune caratteristiche fondamentalmente. Tutte e tre sposate siete, Stefania? Voi autrici di questo libro? Due o no? Su tre. Due su tre. Serena Obert è ancora un po' giovane per secondo noi per questo passo. Assolutamente sì. Io e Stefania Niccolini, sì. Senti Stefania, sì. Da wedding planner, il marito, il futuro marito, lo sposo, quanto entra nelle decisioni? Ma allora, le coppie che incontriamo noi fondamentalmente sono coppie già comunque non giovanissime, nel senso che tendenzialmente sono coppie che il matrimonio se lo pagano da sole, più delle volte, e in questa ottica chiaramente il marito entra, perché il futuro marito entra quasi esclusivamente l'aspetto legato al budget, diciamo il fidanzato normale, ecco. Poi c'è in qualche caso qualche qualche compagno che invece entra anche nei dettagli più femminili, se vogliamo, però è più raro ed è per noi anche un po' più difficile avere a che fare con un uomo che è molto preparato su certi aspetti. Decisamente direi che sull'aspetto legato alla ristorazione, legato al catering, legato alla scelta di un tipo di menù piuttosto che di un altro, l'uomo comunque entra, perché l'aspetto cibo, soprattutto nella tradizione nostra, la tradizione italiana, diciamo che la fa da padrona. Credi, sì. Ecco, Stefania, io ne approfitto, sì. Approfitto di te, di Paolo Mosca, che è qui in studio con me, per leggere il messaggio di Maddalena di Torino, che ha scritto un sms che recita così. Perché generalizzare così? Peccato, ma non so se stiamo veramente generalizzando, oppure più che altro è un dato di fatto, cioè non è una generalizzazione, credo che sia una statistica, un po' un'analisi di quello che succede costantemente. Sì, è assolutamente una statistica, nel senso che noi di coppie nell'arco degli anni ne abbiamo avute parecchie, sia in prime nozze che in seconde nozze peraltro, e la dinamica è più o meno sempre la stessa, nel senso che la donna entra nella ricerca della perfezione del dettaglio, anche perché si rivolge a noi anche per questo aspetto, non soltanto, sì, per un discorso di qualcosa di leggermente più ricercato, un po' più creativo, forse un po' meno banale, consentitemi il termine. L'uomo principalmente vuol far contenta la propria fidanzata, e non ultimo anche i propri amici. Di conseguenza, magari un aspetto dove l'uomo entra e sono aspetti specifici, nel senso, per dire, la festa quando si conclude, quindi il discorso legato all'open bar, faccio un esempio tra mille, dove comunque sa che ci sono gli amici, e quindi da evento ufficiale si trasforma comunque alla fine in vera e propria, perché quasi sempre la dinamica è questa. Ecco, è quello che diciamo tra l'altro proprio all'inizio anche con Paolo. Stefana, ti lascio con questa domanda. Dovendo, avendo un budget ristretto, e dovendo quindi escludere delle cose, cos'è quella che tu consigli di considerare per forza? Allora, per forza sicuramente la scelta di una buona ristorazione, di un buon catering. Ci si può mettere d'accordo, si può trovare la soluzione con i responsabili del catering, della ristorazione, per trovare delle soluzioni alternative al classico pranzo con il mega aperitivo e un seduto, che quello chiaramente fa alzare i costi, per tutta una serie di costi fissi che evidentemente ci sono, no? Quindi certo, il personale e le strutture del catering. Si può optare per un buffet dove magari solo i primi vengono serviti, e questo fa ridurre i costi. Però tu dici di qualità, cioè quindi di qualità, si può, assolutamente, può essere un abito normale, non particolarmente costoso, però la qualità del cibo è la cosa più importante secondo te. La qualità del cibo, soprattutto da noi, perché per esempio in Inghilterra, negli Stati Uniti non è sempre così, noi abbiamo esperienza, spesso non è considerato l'aspetto più importante. In questo caso lo è, anche perché alla fine, se no, l'evento nozze viene ricordato come: ah sì, ti ricordi le nozze di Chicco e Roberta? Ah sì, non si è mangiato bene. Ecco, sì, questo è vero, purtroppo, mi dispiace, sì, ma è così. Ci mancherebbe. Grazie Stefania Poletti, voglio grazie ricordarvi anche il libro, voglio fare la Wedding Planner, edito dalla Corte, editore, grazie ancora Stefania. Grazie a voi, a presto, arrivederci. Tu hai ritrovato tutto, Paolo, i meccanismi sono quelli. Ma ecco, devo dire che sul catering effettivamente il maschio ci sta attento, andando molto nella sua direzione, sì, piuttosto che in quella della sposa. Nel matrimonio che c'è stato a Grosseto, per dire, la sposa era vegetariana e lui ha fatto un menù di carne. Per dire. Ma lui sapeva. Sì, ma c'erano tipo due zucchine per lei, cotte. Però, per esempio, una delle cose su cui dicevamo prima sbagliano sono le scarpe. Perché? Perché secondo lui intanto non si vedono, cioè sono sotto il vestito. E quindi cosa serve? Perché devo spenderci dei soldi? Ah no, piedi scalzi sarebbe ancora meglio, esatto, ancora meno dispendioso. Il servizio fotografico è fondamentale, è l'unica traccia che ti rimarrà di quel giorno. Abbiamo uno studio fotografico e sta tornando di moda l'album classico. Abbiamo da poco finito una fiera importante e i budget sono ridimensionati, ma non la voglia di sposarsi. Ecco, questo lo scrive Tina. Matrimonio 6 anni fa, scrive Anna. Una sposa felice. Sono solo parenti stretti, una chiesetta in montagna e il pranzo in agriturismo. Il mio vestito cucito da me, questa è una bella cosa. Poche cose, ma tanta gioia, perché sì, è vero, è la cosa più importante, è la felicità di quel giorno, su questo siamo assolutamente d'accordo tutti. Da zitella quale sono, ho sempre visto il matrimonio come una sequenza di noia, kitsch e palle varie, scrive Ada. Non tutti la vedono così, ovviamente. No. È comunque una festa. Si può anche ridurre a pochi amici e qualche parente, non è che uno debba per forza, no, invitare tutti. Ecco. No, infatti anche su quello spesso poi c'è il dibattito tra i desideri della sposa e quelli dello sposo. E poi ti chiederò quali sono gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Gianna scrive: è quello organizzato dalla A alla Z solo dalla coppia. Questa è vera felicità. Beh, allora non ditelo alla sposa, è esattamente il contrario. Stavamo parlando, appunto, accennavi al fatto degli invitati e anche lì ci sono differenze. Sì, allora, proprio perché la donna vuole il rito, chiaramente vuole tutti. Sì. Anche la zia che non vede mai. Poi su questo intervengono molto i parenti di entrambi, perché i parenti spingono perché venga invitata anche la zia. Che... l'uomo tende molto di più all'essenziale, per cui è quello che dice, ma anche appunto nell'ultima puntata c'era proprio questa dichiarazione, diceva: ma io anche una cosa piccola tra amici sono felice così. Perché è più sentimentale il maschio, cioè lui è innamorato, la sposa probabilmente lo ha scelto, invece lui si è innamorato della sposa e quindi essendo innamorato gli basta in qualche modo lei, cioè potrebbero sposarsi loro due da soli e sarebbe felice comunque. E, addirittura c'è stato un caso di romanticismo fantastico nelle varie puntate, parlavamo prima della coppia di Grosseto, lui un po' di pasticci li ha fatti, però è un cantautore e per il matrimonio ha scritto una canzone per la sua futura sposa. In questi 20 giorni Christian ha dedicato molto tempo all'incisione di una canzone da dedicare ad Alessia. Servirà per rasserenare la sposa? Lo sai che quando non ci sei ti devo immaginare, pensando a tutto quello che mi dona più piacere. Ma quindi l'ha registrata proprio, ma l'avete aiutato voi o ha fatto no, tutto no, da lui solo? È uno che fa anche questo quindi, nella vita. E quindi l'ha incisa. Sì, sì. Lei si è commossa, si è emozionata. Sì, sì, sì. Beh, questo sì, ovviamente. Ma era bello anche come... No, infatti, è bello. Una canzone scritta per qualcuno e chi la riceve di solito si emoziona molto. Enrico Groppali, ciao, buona domenica. Buona domenica, ciao. Come state? Tutto bene? Tutto bene, parliamo di questo giorno, il matrimonio, e tu che hai avuto a che fare con attrici, attori nel mondo del teatro e del cinema, che cosa ci racconti? Beh, i matrimoni più interessanti sono sempre stati i matrimoni reali negli anni 70, dagli anni 50 in poi, da quello di Elisabetta d'Inghilterra, Margaret e il fotografo Tony Armstrong-Jones. Ma non dimentichiamo negli anni 50 il grande fatto mediatico del matrimonio tra Ali Khan e Rita Hayworth, l'atomica di Hollywood vestita da Dior con Elfa Maxwell tra gli invitati e tra i testimonial, che fece girare il mondo e che impensierì persino a livello della popolarità della sposa, la duchessa di Windsor, che in Wallis Simpson, che in tema di matrimoni negli anni 30 aveva avuto le prime pagine dei giornali, data la sua contrastata storia d'amore con il duca, ovvero con Edoardo VII, che abdicò per amor suo. Dopodiché i matrimoni reali improvvisamente si sono ristriminziti, sono diventati una piccola festa di famiglia. L'ultimo è stato quello proprio della povera Lady Diana con Charles, che quando si è risposato invece con Camilla hanno scelto un matrimonio anche molto semplice, sia pure alla presenza della regina. E devo dire che anche invece i matrimoni hollywoodiani, dato che il mito di Hollywood è in scadenza, non sono mai stati delle fête foraine, come dicono i francesi, sono stati semplicemente delle acquisizioni di un diritto passato dal diritto di chiamarsi in un certo modo e di rinunciare al nome di ragazza da parte della sposa. Non abbiamo più proprio il matrimonio mediatico. Uno degli ultimi a livello di festa popolare fu quello di Albano e Romina Power, però siamo già un po' scaduti. perché siamo passati dalla corte di Buckingham Palace a quella di Cellino San Marco, se così vogliamo. Senza nessuna offesa, naturalmente, per la famiglia Carrisi. No, no, certo. Senti Enrico, come così, per te invece, proprio parla Enrico Groppali, il matrimonio che così in qualche modo ti ha emozionato di più, qual è stato? Beh, quando ero bambino, quello di Grace Kelly con Ranieri di Monaco, perché si trattava della prima volta che un'attrice di Hollywood diventava non solo moglie di un principe, ma sovrana di un piccolo stato europeo e praticamente anche di un piccolo stato in cui, in genere non lo si dice mai, vige ancora il diritto per il sovrano di essere proprio sovrano assoluto. Ecco, tra l'altro ne abbiamo parlato proprio recentemente con la biografia su Grace Kelly che qualche puntata fa abbiamo discusso, e ho scoperto poi leggendo il libro che c'è stato un momento in cui lei avrebbe voluto divorziare, poi ha scoperto che divorziare da un principe non è una cosa così, non è una passeggiata, è qualcosa di molto più impegnativo, per cui poi ha cambiato idea, ma poi le cose sono andate in un modo così, sono andate meglio anche per lei, ecco, e anche soprattutto per il Principato, perché lei in questo senso ha dato una mano importante. Grazie Enrico Groppali. Voglio ricordare anche che da qualche giorno da Mondadori è stato pubblicato il nuovo romanzo che parla proprio di un'attrice, Cavalli bizzosi in mare aperto, così si intitola. Buona domenica, ciao Enrico, grazie. Grazie, ciao. Grazie a voi, arrivederci, buona domenica. Paolo, prima del GR volevo chiedere, tu sei sposato? No. Però hai una relazione importante, convivi da molti anni. Sì. Ecco, non è che voglio farmi affari tuoi e così divulgarli in radio, però volevo così curiosare, se posso, nella tua vita privata, semplicemente per sapere se lei invece vorrebbe sposarsi e sei tu quello che sta frenando, per qualunque ragione, voglio dire, da così. Guarda, da bambino, no? Non cresciamo mai in questo senso. Ecco. Anzi, posso prendere questa occasione per chiederle la mano. Ah, va bene, ok. Sabrina, sposami. Ah, quindi hai deciso così? No, così in questo momento. Così in questo momento, quindi ti ho portato a questo, poi io non ne voglio sapere se vorrete invitarmi, non va bene. No, non volevo mettere in imbarazzo, però... No, no, ma allora, guarda, io non ho nulla contro la festa. Sì. Mi ha sempre infastidito l'idea del contratto. È quello che ti spaventa. Sì, cioè non, lo trovo appunto poco romantico, essendo io maschio. Sì. E quindi mi sembra che nella convivenza ci sia già tutto. Faremo riflettere gli ascoltatori su questa cosa. Se avete qualche commento da fare direttamente a Paolo Mosca, io non c'entro. 349-238-6666, c'è il GR e poi continuiamo a parlare di matrimonio uniti per sempre e sicuramente nel migliore dei modi. Il riposo del guerriero. Le 11:09 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini nel riposo del guerriero. Oggi parliamo della festa più importante della vita, che è il matrimonio. Una festa che ognuno fa a modo suo. Abbiamo mai capito che le donne la vorrebbero in un modo, gli uomini la vorrebbero in un modo completamente diverso. Chiaramente non stiamo entrando nell'argomento della puntata, è la festa in sé, non nello sposarsi sì, sposarsi no, eccetera, che molti messaggi riguardano anche questo aspetto, ma non è l'aspetto del riposo del guerriero di oggi. Leggo ancora qualche messaggio. Quello di mia figlia ha vinto l'emozione e la semplicità, è stato bellissimo, scrive Teresa, che ovviamente è la madre. Insopportabili i matrimoni passati a tavola a ingollarsi, insomma, anche perché abbiamo visto che il cibo è importante, però troppo tempo a tavola non fa bene. Sposata 20 giorni fa, scrive Giulia su Facebook, dopo 29 anni di rapporto, col matrimonio più economico del secolo, noi e i testimoni in segreto, avvisati tutti gli altri dopo. Ci siamo sentiti due ragazzini, che bello, con tutti i vestiti già appesi nell'armadio, come non trovarne uno adatto per l'occasione? Praticamente abbiamo speso solo 15 euro per i documenti. Com'è? Beh, allora intanto mi piace l'idea. E poi devo dire che anche facendo questa trasmissione ho notato che ormai ci si sposa dopo la convivenza, cioè molte delle coppie hanno già un vissuto insieme, quindi si sono in qualche modo rodati. Sì. E spesso hanno anche già figli e non sono matrimoni riparatori, cioè non si sposano perché una è rimasta incinta. Sì. Sono figli di 2, 3, 4, 5 anni hanno già fatto un percorso insieme e poi approfittano della trasmissione oppure trovano che sia il momento giusto per fare questo passo. Ecco, perché dice approfittano della trasmissione? La trasmissione si intitola Non ditelo alla sposa, di cui Paolo Mosca, ospite oggi, è curatore. Lo dico perché si fosse sintonizzato adesso, perché in realtà una parte la dà la produzione, vero? Una di parte soldi, dei soldi, sì. E devo dire che il matrimonio, al di là del, appunto, della bellezza che può avere o meno, della voglia di festeggiare, eccetera, ma è anche un costo. E allora in un periodo come questo, periodo di crisi economica, spesso non ci si sposa anche perché non si hanno i mezzi economici per farlo. Salvatore Patriarca, buona domenica. Buona domenica Stefano, buona domenica a tutti. Responsabile editoriale di Salute 24, perché c'è un legame anche fra benessere e matrimonio, o malessere, non lo so, ma benessere mi sembra di capire. Beh, tendenzialmente più benessere, sì. Sono una serie di studi in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Australia, all'Inghilterra e alcuni anche in Italia, in cui si evidenzia la correlazione tra un matrimonio felice e una migliore salute, sia per l'uomo che per la donna. Ecco, cambiano le cose, cioè per la donna il matrimonio fa bene a questo, il matrimonio a quest'altro oppure no? Sì, c'è una differenza sostanziale, diciamo che in senso generale si può dire che per l'uomo il miglioramento è di natura fisica, cioè c'è una migliore salute da un punto di vista della macchina del corpo, probabilmente perché si viene meglio curati, probabilmente perché c'è più attenzione dal punto di vista alimentare. Invece per la donna il miglioramento è essenzialmente di natura psicologica, quindi minore inclinazione alla depressione, minore attitudine allo stress e così via. Ecco, no, così sorrido un pochino, perché mi viene da pensare una donna che si è sposata, ha figli e lavora, di cose da affrontare veramente ne ha tantissime, quindi forse cioè un po' di stress magari c'è, invece forse fare molto alla fine aiuta anche a superarlo, non lo so, come la vedi Salvatore? Beh, probabilmente immagino, anche perché sì. Poi gli studi sono numerosi anche in contesti sociali differenti. Penso che l'idea del completamento esistenziale, che comprende appunto amore, famiglia, figli, lavoro, e da un altro la certezza di avere in qualche modo tutto, più in quell'ottica penso che vada inteso il senso di miglioramento di umore e attitudine per lo stress. Poi concretamente immagino che fare tante cose determini una componente di stress relativa. Ma che però, secondo me, poi aiuta anche però ad avere energia e a superare, Esatto. Serve anche quello. E invece mi incuriosisce anche l'altro aspetto, cioè per il marito il fisico, cioè nel senso che mi immagino sempre che i mariti una volta sposati di solito ingrassano, invece a quanto pare non è così. Allora, ci sono anche due direttrici parallele e entrambe vere. Da un lato è vero, cioè ci sono studi che verificano il fatto che nell'80-85% di casi nel primo anno di matrimonio si ingrassa fino a 5 kg, quindi quello è un elemento su cui difficilmente si può dire il contrario. Però allo stesso tempo, come dicevo, i matrimoni felici, ecco, perché questo è un particolare che forse ci siamo dimenticati di specificare, sì. Cioè tutti questi studi rientrano in un ambito in cui il matrimonio è un matrimonio effettivamente desiderato e felice, vissuto bene, sì. Ecco, perché altrimenti laddove ci sono delle problematiche diventa tutt'altra cosa. Ma in un matrimonio felice, soprattutto da un punto di vista cardiovascolare, per l'uomo c'è un netto miglioramento. Ripeto, probabilmente forse perché ci si alimenta meglio, c'è una maggiore cura nell'alimentazione, un rigore nell'orario dei pasti, cose di questo tipo. Ecco, insomma, sposarsi fa bene, lui ci guadagna salute fisica e lei invece mentale. Grazie Salvatore Patriarca. Grazie Stefano, buona domenica a tutti. Responsabile editoriale di Salute 24, a proposito di benessere, vi ricordo anche Essere Benessere con Nicoletta Carbone tutti i giorni, lunedì al venerdì alle 11, e domani sarà ospite Mari Caglian tutta la puntata, domani alle 11. Allora, Paolo, per concludere con te, cosa hai imparato da questa esperienza di Non ditelo alla sposa? Ho imparato che l'uomo e la donna sono molto diversi. Cioè, tu lo sapevi già prima, voglio dire. In qualche modo sì. Senti, se dovessi organizzare tu invece il matrimonio alla sposa? Non ho la più pallida idea. È una cosa. Ma cos'è che non rinunceresti assolutamente? Alla festa. Alla festa, agli amici. E al mangiar bene, sono d'accordo su quello. E invece pensando a lei, che cosa non le faresti mancare? Il bel vestito e le belle scarpe. Io sulle scarpe non sbaglierei. perché comunque sei attento a questa cosa. Sì, sì, ti ma poi perché mi piacciono le anche se non si vedono, tu dici, però no, le vedi tu, lì, ecco, magari... sai che le hai. Sì, beh. Tante cose nella nostra, come ci vestiamo, no? Tante cose non si vedono, però sappiamo che le abbiamo e questo ci dà sicurezza, al di là appunto che si vedano o meno. Beh, come allora l'intimo. Esatto, allora stavo pensando a quello, no? Uno dice, beh, non lo metto perché esatto, tanto non si vede. Il ragionamento non funziona, assolutamente. Grazie Paolo Mosca, grazie non ditelo alla sposa e ripetiamo su lei. Alle 22 il martedì. Ecco, vabbè, poi vedremo anche nella prossima edizione che ci sarà, il curatore lo farò io e tu sarai. Io mi sposo. Esatto. Va bene. Allora, gli aggiornamenti sul traffico, poi ci sarà la nostra glottologa Francesca Dragotto con Senti chi parla e oggi sentirete chi parla. Il riposo del guerriero. Reason cold in 8th night's usual. Senti chi parla. Parla la nostra glottologa Francesca Dragotto e linguista. Ciao Francesca, buona domenica. Buongiorno Stefano e buongiorno a tutti. Il protagonista di oggi è stato protagonista della settimana grazie all'alto share conquistato con il suo, chiamiamolo, concerto e poi è anche protagonista della nostra sigla perché è Adriano Celentano. Esattamente, è proprio imitati tanto da essere impiegato dagli attori per lunghe sessioni di esercizio in questa attività, bersaglio di molti imitatori che nel far ciò imitano però un'imitazione, soprattutto perché spesso riprendono il Celentano di Erpiù, Serafino e Rugantino, la trilogia in cui il poliedrico artista esibisce una romanità che Max Tortora chiosa in questo modo. Perché a me mi affascinava questa cosa che Celentano, che era milanese, si mette a fare romano, come se io mi metto a fare tre firme in milanese, che c'ho un coraggio, una cosa. E lui faceva questa cosa qua, no? Oe, agnapè, cerca di comportarti bene, non mi guarda Rosetta che è una roba. Ed in effetti basta ascoltare questo passaggio per rendersi conto della fondatezza delle affermazioni di Tortora, che è solito imitare il molleggiato, risciacquato, malamente intevere, passatemi il gioco con delle reminiscenze colte, per ore ed ore. Ecco, quindi è una sorta di imitazione dell'imitazione. Sì, ecco. Sì. Quindi, ma riuscita, però cioè, nonostante efficace da un punto di vista comunicativo, anzi rimane particolarmente impressa proprio perché è mal riuscita. Ma che è successo? Perché piangi? Per Totorello. Che ti ha mancato di rispetto? No, anzi, è proprio per questo. Vabbè, gli spiegate meglio, non mi fa incazzare. Il dato interessante è infatti legato al fatto che questa poca credibilità, questa scarsa credibilità, questa romanità che suona palesemente falsa e artefatta è conseguenza di un habitus linguistico che è talmente fortemente definito da essere divenuto un'impronta digitale difficilmente oscurabile. È riprova di quanto sto dicendo il dialogo muto di Mani di Fata in cui Celentano, che interpreta Guido Quiller, non Killer ma Quiller, anche in assenza di parola non perde nulla della carica comunicativa e dei tratti che la contraddistinguono, tratti che hanno a che fare perciò con le espressioni del volto, con la postura, con i movimenti del corpo e delle braccia, almeno quanto se non forse di più con il linguaggio verbale. E intorno a questa forza espressiva, soprattutto negli anni Ottanta, si vengono a costruire dei ruoli per Celentano che lo vedono impegnato come sex symbol, adorato, desiderato, addirittura adescato dalle donne. Mandiamo un pezzo che lo vede in competizione nella seduzione di Ornella Muti in Innamorato pazzo. Dammi la cuffia. Perché? Vado a fare un tuffetto. Film del 1981, Innamorato pazzo potrebbe essere sostituito da qualsiasi altro film dei tanti in cui Celentano ha recitato. Ciò non intaccherebbe minimamente quel Celentano trademark, quindi marchio registrato, che ha accompagnato e ancora accompagna qualsiasi sua performance. Come ultimo elemento di questa riflessione, però, vorrei prendere in considerazione due casi per certi versi opposti. Il primo è legato appunto alla sigla di questa rubrica e sto parlando del Celentano inventa parole o più esattamente inventa lingua, perché sto parlando del Gramlò, una lingua che suona lingua, che sembra lingua senza esserlo a causa della mancanza di significato delle parole che nell'espressione riecheggiano però quelle della lingua oggetto di imitazione. Lo sentiamo e poi lo commentiamo. Senta, professore. Sì, dica. Come mai hai scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente? Prison call in 8th night's usual. You're the cold maze, say one. Prison call in 8th night's usual. All right. insieme a Disc Jockey, presa in Collinense Nine Chuso, era contenuto nel, pensate, 48esimo 45 giri di Adriano Celentano. Parliamo del 1972. Il titolo è anche lemmatizzato, quindi registrato con una voce autonoma in Wikipedia, che riporta anche il giudizio dell'artista sul testo del brano, che rappresenterebbe, stando a Wikipedia, la ribellione alle convenzioni, anche musicali. Ho però scovato un'intervista fatta a Celentano da un giornalista russo, in cui però viene data del Graham Law una diversa interpretazione. Pure anche Prison Call in Nancy Nine Chuso, che è una canzone un po' folle, dove non ha delle parole, è una canzone così completamente inventata, però ha un suo significato, perché mette un pochino a fuoco l'incomunicabilità che oggi c'è in tutto il mondo. Nell'intenzione di Celentano, il significato di Graham Law va quindi in direzione opposta rispetto a quello convenzionale, perché consiste nella capacità dei parlanti della lingua bersaglio di saper riconoscere parole e frasi nella successione invece priva di significato del Graham Law stesso. Quindi il Graham Law all'orecchio del parlante ricorda la propria lingua anche senza esserlo. Afferma infatti Celentano che il Graham Law è sintomatico dell'incomunicabilità del mondo moderno, quando invece nelle intenzioni realizza esattamente l'opposto, ovvero una lingua in grado di unire chi la parla, non necessitando della conoscenza specifica però della sua grammatica. Il ricorso al Graham Law del resto non è limitato al solo Celentano, vi basti pensare a quello del mistero buffo di Dario Fo, oppure a quello di Proietti o a quello di Verdone, penso a Pasquale Ametrano, allo sfogo di Pasquale Ametrano, il cui Graham Law è improntato a varietà di italiano popolare o direttamente di dialetto del sud Italia. E io volevo soltanto una cosa, c'è da volerci. Io non ci armare, mi ci sono un buccio di cui dici il polpo. Va bene, ma tu vuoi? Ah, io ci tocca. In parte dei germani, quello scorre. È rimasto un brano, c'è cose, alla radio qui cassetti, via della cappella. Ciao. Ah, io riprendo una cosa, a riprendere ragione. E per finire passiamo ad un fatto estremamente attuale. L'arcobaleno è il mio messaggio d'amore. Può darsi dolere se non riesco a leggere. Con i colori si può cancellare il più avvilente e desolante squallore. Appunto, per finire, l'attualità con Celentano che dimentica le parole. In generale possiamo dire che in questo spettacolo la musica ha avuto meglio, ha avuto la meglio sulle parole, che sono state poche, almeno in questo caso. Ora, come chiosa finale, che potremmo dire? Che chi lo ama e lo segue di queste amnesie, francamente, se ne infischia. Grazie Francesca, noi ti amiamo e ti seguiremo anche domenica prossima con Senti chi parla. Ancora buona giornata. Grazie anche a voi, arrivederci a tutti. Crema Novi, un'autentica specialità, con il 45% di superbe nocciole delle nostre colline. Vi presenta Il Gastronauta. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Buona domenica a tutti. Eccoci qua, abbiamo parlato di matrimonio oggi, che molto ha a che fare. Hai sentito che la direttrice di Vogue Sposa ha detto una cosa, ma la nostra wedding planner ha detto che una cosa alla quale non si può rinunciare è il mangiare bene durante un matrimonio. Ma guarda, queste sono balle incredibili. Eccolo qua, lo sapevo, te l'ho detto apposta, io ti conosco. Sono balle incredibili, perché nei matrimoni di solito si mangia veramente molto male, con quel salmone sempre pronto a essere servito, freddo, caldo, fresco, cucinato in tutte le maniere. Certo, ultimamente forse ci sarà anche un miglioramento, però si vede che io sono andato a pochissimi matrimoni in vita mia, quindi ti devo dire che negli ultimi due ho mangiato molto ma molto bene. Però vedendo in giro, sentendo in giro e vedendo anche molte volte magari nei locali dove ci sono gli eventi, queste tavole apparecchiate con il famoso buffet, devo dire che sono rimasto veramente inorridito. Devo dire, forse ci sono dei catering oggi molto bravi. Tra l'altro devo dire che a Firenze durante Taste c'è anche una gara tra i migliori catering italiani, e quindi quelli che ho visto in finale sono validi, erano tre o quattro ma erano famosissimi. Non bisogna generalizzare, però se andiamo in giro per l'Italia bisogna vederli tutti i matrimoni, non si possono vedere i cinque magari principeschi tra Milano, Roma e via di seguito, bisogna andare anche in giro. Forse è molto meglio un bel matrimonio in campagna, quelli che ogni tanto si vedono in alcuni film, dove fuma la pasta e magari ci sono dei grandi prosciutti, si mangiano cose genuine e quindi con tanta allegria e magari si balla anche nell'aia. Ecco, io preferisco quel tipo lì che quelli rileccati che si vedono di solito in giro. Ecco, tu se dovessi organizzarlo, se dovessi essere tu il wedding planner, sì, per un matrimonio, che cos'è, che come sarebbe il tuo menù o come lo faresti? Ecco, da un punto di vista del gastronauta, come farebbe, come organizzerebbe un matrimonio? Dal punto di vista del mangiare, ovviamente. Un matrimonio non lo farei con tantissime portate, perché secondo me sono quelle che poi alla fine fregano, perché sono tante e quindi non possono essere di grandissima qualità quando, diciamo, il budget è limitato. Io un matrimonio lo farei di 4-5 portate al massimo con i dolci. Farei cose molto leggere per far arrivare la gente alla fine, magari un po' più leggera di quello che non si vede di solito in queste grandi party. Quindi sicuramente bisogna dividere anche tra estate e inverno, sono due momenti completamente diversi. In inverno lo caricherei un po' di più, ovviamente data la stagione. In estate sicuramente farei agire il pesce, non il salmone. Non so, io non ho una guerra contro il salmone, però lo vedo talmente in tanti posti che mi viene qualche dubbio. Sicuramente un bel antipasto a base di pesce sicuramente lo farei. E poi forse salterei il primo e farei diverse portate di secondo con degli assaggi e magari anche, cioè ancora pesce, delle verdure e poi qualcosa anche di molto divertente a sorpresa. Quindi magari un bel pesce a cartoccio servito in maniera elegante, ma non sicuramente tante carni d'estate. Invece d'inverno si può andare sul pesante anche con un bel primo, magari sicuramente un primo sia asciutto che in brodo, e poi non lo so, un secondo mi piacerebbe un bel pollo allo spiedo, tanti polli allo spiedo mi piacerebbero, oppure un maialino che gira. Ecco, di carne preferirei questo, in una bell'aia un maialino che gira. Ecco, e ovviamente per bere le bollicine d'obbligo, a tutto pasto oppure soltanto alla fine? Beh, io credo che a tutto pasto sarebbe un'ottima idea, magari con dei grandi magnum, perché non ci sono tanti cambi, si risparmiano i bicchieri, i camerieri lavorano meno e quindi il servizio rimane anche più veloce da una portata all'altra, perché una delle difficoltà, ma non solo dei matrimoni ma anche degli eventi, è la difficoltà quando si tante persone del servizio, quindi c'è una lentezza nel servizio ovviamente, perché la cucina non è che può sfornare a ritmo incredibile, quindi se ci sono meno utilizzo ad esempio dei bicchieri, se fanno le bollicine a tutto pasto, magari anche bollicine diverse sicuramente per arrivare alla fine, sicuramente non con le bollicine metodo classico, perché alla fine col dolce sarebbe, come posso dire, una incongruenza, ma un qualcosa di demisecco, di dolce, ecco, forse cambiare due bicchieri durante il pasto, però un grande metodo classico, che oggi ce ne sono anche a buon prezzo, non c'è bisogno di andare sui vintage o sulle riserve speciali. Ci sono anche degli ottimi sfumanti italiani in metodo classico che non costano moltissimo, quindi andrei su quelli. Mi conosci e sai che concordo assolutamente con te. Grazie Davide, ciao. Alla prossima. Buona domenica, grazie. Ciao. Tra poco invece giochiamo con Picasso in 24 minuti, per voi la possibilità di volare a Malaga con tanto di visita guidata in italiano al Museo Picasso di Malaga. Tra pochissimo nel riposo del guerriero vi ricordo il numero per partecipare: 800 24 00 24. Picasso in 24 minuti. Grazie a Rientre del Turismo Spagnolo, per voi c'è il volo andata e ritorno per due persone, nel soggiorno di due notti sempre per due persone in camera doppia, l'ingresso visita guidata in italiano al Museo Picasso di Malaga, l'ingresso visita guidata alla casa natale di Picasso, la visita panoramica di Malaga e poi la visita guidata della Malaga di Picasso in lingua italiana. Tutto questo per chi riesce a indovinare qual è l'opera di Picasso, che in qualche modo si può legare all'indizio musicale che tra poco ascolta. ascolterete. Vi ricordo che c'è Picasso, o meglio i suoi capolavori, dal Museo Nazionale Picasso di Parigi in mostra a Milano a Palazzo Reale fino al 6 gennaio, e poi c'è anche una serata speciale di Radio 24. Andate sul nostro sito www.radio24.it per leggere tutte le modalità di partecipazione. Il numero verde per prenotarvi e per prenotarvi 800 24 00 24. Ce la faremo stavolta, speriamo di sì. Cercate di capire qual è l'opera di Picasso in qualche modo legata a questa canzone. Ti nasconderai dentro i sogni miei, ma io non dormirò. Mi dovrà passare. Grazie da Genova, ciao, buona domenica, grazie. Buona domenica. Ci riproviamo sta settimana, vediamo di portare a casa questo viaggio, va? Ci sono anche però i cataloghi della mostra a Milano. Allora, grazie. Sì. Allora, ci ho un po' pensato, per me è il paesaggio. Il paesaggio. Tu dici il paesaggio che cambia, giusto? Il paesaggio che cambia, sì, le stagioni. Grazie, ciao, buona domenica. Grazie. In realtà noi la settimana scorsa avevamo ascoltato anche un altro indizio, già due ne avevamo sentiti. Valentina da Latina, fa anche rima. Ciao. Buongiorno a tutti. Allora, tu Valentina avevi sentito anche l'altra canzone che ha a che fare con l'opera di Picasso, di cui sì, vorrei titolo. In effetti sembra appunto che la seconda canzone mi abbia confermato poi il primo indizio, insomma. Sì. Sempre con il beneficio di un dettaglio. Allora, facciamo una cosa per rendere tutto uguale agli altri, cioè per chi insomma non avesse ascoltato il secondo indizio, e sentiamo il riascolto dell'altro indizio, ovvero della seconda canzone che in qualche modo ha a che fare con questa opera di Picasso che voi dovreste indovinare. Allora, questo è il primo, invece il secondo, che avevamo già ascoltato anche la settimana scorsa, eccolo qui. L'estate non cade e io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti Questo è il secondo indizio, Il mare d'inverno, interpretato da Loredana Bertè, la canzone di Enrico Ruggeri, e devo dire che comunque io personalmente la preferisco sempre nell'interpretazione della Bertè, mi piace di più. Torniamo alla nostra opera, Valentina. Allora, questi erano i due indizi che abbiamo già scoperto la settimana scorsa. A quale opera di Picasso si riferiscono? Io avevo pensato alla gioia di vivere. La gioia di vivere. La gioia di vivere. Sai che non posso dirti niente, ma ti ringrazio, Valentina. Ciao. Va bene. Buona domenica. Grazie. Ciao. Non posso dire nulla. Voglio ricordare che la prima persona che indovinerà si porterà a casa il viaggio offerto dall'Ente del Turismo Spagnolo, e gli altri, nel caso dicessero lo stesso titolo, si porteranno a casa invece il catalogo della mostra e il biglietto d'ingresso. Irene da Cagliari. Irene. Sì, buongiorno. Ciao Irene. Allora, ciao. Qual è l'opera di Picasso secondo te legata a queste due canzoni? Allora, stiamo parlando di Picasso, quindi chiaramente parliamo di tante cose, opere, stilemi, simbologie, sì, quindi è un po' difficile, però forse non darò la risposta giusta, però mi piace ricordare Picasso come anche impegno civile, per esempio La Guernica, che secondo me è una delle opere più belle, che simboleggiano proprio l'impegno civile dell'artista. Lui soffrì molto di tutto ciò, quindi ricordiamo il bombardamento, La Guernica. Quindi io secondo te la risposta è La Guernica, sì. Grazie, non posso dire nulla. Grazie Irene, ciao. Giovanni da Firenze, buongiorno Giovanni. Buongiorno Stefano. Io so che non è facile a lei e agli ascoltatori. Grazie. Io allora, sì, scusa, da quei due indizi che ho ascoltato, sì Giovanni, per un collegamento di idee che ora è lungo spiegare, direi l'opera La Vita. Grazie Giovanni, buona domenica. Grazie. Ciao, grazie. Non posso dire nulla. Allora, io so che non è facile, perché è difficilissimo trovarlo anche in rete. Ecco perché. Anche internet potrebbe aiutarvi molto poco. Nadia, dalla provincia di Milano. Buongiorno, Nadia. Buongiorno. Nadia... Io avevo pensato anch'io come Irene prima a Guernica, perché mi ricordo che Picasso cambiò il nome, prima l'aveva pensato per qualcos'altro e poi lo cambiò, eccoli nel cambiare, mi è venuto in mente questo. Grazie Nadia. A te, grazie, ciao. 800 24 00 24, io oggi devo assegnare il viaggio, parto io se non riuscite a farlo voi, per cui Lucas della provincia di Brescia, buongiorno Lucas. Buongiorno a tutti, io non avevo sentito la seconda canzone, quindi io mi sono appoggiato solo alla prima, quella del cambiamento. Per me l'opera di Pablo Picasso più associata all'idea del cambiamento è il quadro intitolato Le Signorine d'Avignon. Le Mademoiselle d'Avignon, tra l'altro, è uno dei quadri che avevamo già preso in considerazione nelle puntate passate, purtroppo. Però c'è, io quello che voglio, adesso vi devo aiutare, perché nessuno di voi è riuscito a portarsi a casa ancora niente, perché le risposte sono tutte sbagliate, lo diciamo chiaramente. E quello che mi fa... Non arrabbiare, no, assolutamente, ma allora, Il mare d'inverno, il secondo indizio, dice chiaramente l'argomento, è proprio chiaro. È vero che Picasso ha disegnato tante cose che hanno a che fare con quell'argomento lì. Allora, in questo caso, il primo indizio, cambiare, vi dà una mano. Lucas, mi dispiace. Buona domenica. Ciao, buona grazie. Domenica a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Allora, prima degli aggiornamenti sul traffico, voglio farvi ascoltare ancora un momento del nostro scrittore che ci racconta l'arte di Picasso, Luca Scarlini, e ci racconta di un Caravaggio rubato. Picasso si rappresenta come un vecchio satiro. Dopo la liberazione di Parigi nel 1944, Pablo Picasso divenne il compagno di una giovane studentessa d'arte che si chiamava Françoise Gillot. Ebbero due figli, Claude e Paloma, celeberrima, e peraltro fu lei l'unica a lasciare l'artista, che non ne poteva più delle infedeltà. Dopo che Françoise l'aveva abbandonato, Picasso cominciò a raffigurarsi come un vecchio satiro, un nano sempre alla caccia di belle fanciulle che spesso avevano i tratti di Françoise che lo aveva abbandonato. Picasso in 24 minuti. Arianna da Udine, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica. Arianna, siccome... Allora. Aspetta, Arianna. Dimmi. Facciamo una cosa. Siccome io devo assegnare il viaggio oggi... Mi devo aiutare in tutti i modi, adesso devo farlo per forza, e allora ti aiuterò con un altro indizio. Sei pronta ad ascoltarlo? Vai. Eccolo qua. Mannaggia le donne, tutte quante le donne, una per una sono tutto un programma. C'ho certe madonne, mamma mia che madonne, ma dai non torna la tua mamma. Hai capito male, è uno sfogo. Anche se il gioco vale quando dura poco, ma che razza di fesso sono stato, anche se lo confesso mi ero innamorato. E Dio ti benedica, sei una vera amica. Io non ti mangio mica e che fatica, tu sei proprio una gran donna. Che bella casa, complimenti cara, non ci credo ancora, ti sei persuasa, oh grazie, bevo una gazzosa. Ecco, questo è Claudio Baglioni di una canzone di moltissimi anni fa, gli anni 70, si intitola E apri quella porta. Allora facciamo, mettiamo insieme le cose: Cambiare, Alex Baroni, Il mare d'inverno, Loredana Bertè, E apri quella porta, Claudio Baglioni. Allora, Arianna, lo vince qualcun altro? Io sono rimasta, i primi due mi sembravano con Limare, banalmente figura in riva al mare, ma con Baglioni casca al palco, mi sa. E apri quella porta, dice Baglioni nella canzone. Ciao Arianna, vabbè, prossima volta. Che rabbia, ciao, ciao. C'è Pablo, magari è Picasso da Genova. Buona domenica, Pablo. Ciao. Allora, quale potrebbe essere l'opera? Io il primo indizio mi aveva dato un'impressione, poi mi avete mandato completamente fuori strada e adesso sono un po' in alto mare. Sì, il mare infatti c'entra, sicuramente il mare c'entra, anche se il mare non è nel titolo dell'opera, ok? Il verbo del titolo dell'opera è molto chiaro a questo punto dall'ultimo indizio, che è apri quella porta. Ormai vi dice tutto. L'ultimo indizio è apri quella porta, vi dice tutto. Pablo. Sì, stavo pensando. Non è un quadro facile, lo so. Non è che... con il verbo aprire. Sì, va bene. Penso donne che corrono sulla spiaggia. Vedi che in qualche modo sei vicino, siamo lì. Grazie Pablo, ciao. Grazie a voi. Fabio, ciao. Da Roma, buona domenica Fabio. Sì, buona domenica a voi. Allora, quale potrebbe essere l'opera di Picasso? Anch'io come Pablo ero orientato dal primo indizio sul primo Picasso. Però adesso hai detto anche queste altre cose, sì, ci hanno un po' deviato. Noi avevamo pensato a Volto di donna. Grazie, ma purtroppo non è giusto. Grazie Fabio, ciao. Maria Gabriella dalla provincia di Milano. Maria Gabriella, devi spegnere la radio per cortesia, grazie. Ok. Prego, buongiorno. Ciao Maria Gabriella. Io pensavo a Celestina, anche se con l'ultimo indizio sinceramente non c'entra. L'avevamo già, tra l'altro era uno dei quadri già messi nel gioco, sai, nelle settimane scorse. Mi dispiace Maria Gabriella, ciao, grazie, ciao. Cerchiamo di mettere insieme le cose. Marianna da Rimini, buongiorno Marianna. Buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, io propongo insieme alla mente geniale di mia mamma il quadro studi, perché ci sono due persone che ballano sul mare che sembra invernale, c'è tutta l'opera di Picasso nella sua evoluzione e la porta è quella dello studio che si apre. Non è giusto, mi dispiace Marianna. Questo? Ciao, no, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Antonella da Treviso. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Allora, vediamo il soggetto, secondo te, di questo quadro, quale potrebbe essere il soggetto del titolo? Abbiamo a che fare col mare, quindi un... Una spiaggia. No, il soggetto non è la spiaggia, ma se è una persona è un... Una donna. No. Pesce? No, direi di no. Antonella. Io, guarda, sono rimasta piantata a donne che corrono sulla spiaggia. Antonella, no. Non c'è, guarda, qui non c'è proprio nessuno che corre. È una persona persona ferma. Grazie Antonella, che rabbia. Ciao, grazie. Allora, dobbiamo mettere insieme il mare, abbiamo capito, ok, apre quella porta. Allora, e apri quella porta, era il titolo dell'ultima canzone, quindi si apre una porta, ok? Angela dalla provincia di Roma. Angela dalla provincia di Roma, si apre una porta. Chi è che apre? La maniglia. No, lo so, ma chi fisicamente? Allora, al mare chi ci può essere? Fisicamente al mare c'è un bagnante. Ok, che cosa fa? Un bagnante che... Che cosa fa? Qual è l'azione? L'ultima... L'azione che si muove verso il... No! Angela, abbiamo un minuto. Allora, il bagnante osserva. Grazie, ciao Angela, buona domenica. Natalia o Natalia? Pronto, sì, da Brindisi. Allora, pronto? Natalia, abbiamo detto un bagnante, che cosa fa? Qual è l'azione? Un bagnante si bagna. Pensate al bagnante che si dirige verso l'acqua. Dovete pensare al terzo indizio che vi ho dato. Non posso aiutare di più, sto dicendo tutto. Ciao Natalia, grazie. Okay, arrivederci. Mi dispiace. Paola da Vicenza. Cosa fa il bagnante? Il bagnante può aprire l'ombrellone. Apre che cosa? Siamo al mare. Cosa apre, Paola? La sedia a sdraio. No, ciao Paola. No, mi dispiace. Simonetta da Roma. Ti prego, Simonetta, il bagnante che apre che cosa? Simonetta, non lo so, mi dispiace. Ma cosa si può aprire al mare? Ciao Simonetta, Giuseppe da Latina, pronto Giuseppe? Sì. Giuseppe, bagnante che apre che cosa? Al mare? L'asciugamano. Diego da Milano. Diego. Salve, ciao Stefano, apro una cabina. Bagnante che apre una cabina. Il primo indizio era cambiare, perché nella cabina ci si cambia. Ecco perché nella cabina ci si cambia. Il mare d'inverno, perché la cabina è al mare e alla fine apri quella porta. Bravo Diego, grazie all'Ente del Turismo Spagnolo. Voli a Malaga insieme a chi vuoi. Buona domenica, ciao, grazie. Non c'è tempo se non per ringraziare Giorgio De Luca in redazione, Nadia Zammiti in assistenza, Paolo Corleoni in regia e ovviamente a voi. E ci sentiamo domenica prossima. 10 puntuali con il riposo del guerriero, ce l'abbiamo fatta. Buona settimana a tutti da Stefano Gallarini.